sempre il solito pazzo che ha tolto lo sguardo da un mondo che è un insulto. Dio non è nascosto, si è spento senza schianto. Se è vivo non vuole essere coinvolto ed esulto, sognando una folla in tumulto. Ma qua è tutto previsto, l'ho già visto in mille film scontati come Lido. Ho un autore del cazzo che mi scrive battute che detesto, ed è questo il punto, la verità, l'essenza, senza il centro né circonferenza. Vivo in bilico, l'ottimismo e il delirio di credere che Dio possa ridere anziché uccidere. Sono un critico perfetto, un cuore infranto che cerca consolazione in un karma scontento. Il guerriero mai vinto, irascibile e convinto dal mondo che attorno che avrà il suo onore all'inferno. Che senso avrà credere ancora? Un liricista terrorista e miratrista, questa folla purista infissa per una vita da turista, cronista di un mondo in tempesta, equilibrista che prima o poi casca. Un umorista che ride della nostra disfatta e balbetta quando la serata è molesta. Sono un fatalista masochista che alza la cresta del musicista, un comunista che aspetta solo ciò che gli spetta, ed è questa la strada onesta, avere speranza che Berlusca sia qui, dove? Accanto a me che protesta. Sono un sofista perché Sofia è l'unica risposta, assieme a una beretta P4 tempesta. Il regista in fissa per la scena che detesta, quella dell'ultima fottuta sigaretta. Che senso avrà credere ancora un altro? Forse sì, e resto qua ad aspettare qualcosa che sia meglio anche per me. La libertà non è fatta per noi, troppo ignoranti, troppo incolti, troppo molli, troppo vigliacchi, troppo corrotti, troppi soldi contanti, come ha detto Marà. Non meritiamo la libertà, la nostra oscurità riecheggerà nell'eternità, e ci chiudiamo in gabbia sconvolti dalla rabbia mentre crollano stupidi castelli di sabbia. Non cambia il senso, è solo un'altra Bibbia abbandonata nella nebbia, ed è problematica. Questa metafisica è selvatica, questa non è musica, è un furto delle note di un altro, assemblate sui chip di un fottuto disco fisso, bytes virtuali nient'altro. Qualche rima di un pazzo, di un uomo onesto mai perso e depresso, lacerato dallo strappo. Che senso?